Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali di Matteo Caccia. Questo è l'appuntamento del sabato di Linee d'ombra in cui vi riassumiamo in una mezz'oretta, in questa mezz'oretta tra le 21.30 e le 22 del sabato sera, tutta la storia seriale che vi raccontiamo di solito in chiusura di puntata. Linea d'ombra che invece è in onda dal lunedì al venerdì, e in chiusura vi raccontiamo un'unica storia che parla di un vizio capitale che però è raccontata in maniera seriale, per cui prende 2, 3, 4 settimane, delle volte anche un mese o un mese e mezzo. Questa settimana abbiamo cominciato una nuova storia, è una storia dedicata all'ira ed è una storia molto molto pregnante per la vita del suo protagonista, dei suoi protagonisti, ma anche per la vita di questo paese. Raccontiamo la storia di Ira, raccontiamo la storia di Giorgio Bazzega, che è il figlio di una vittima delle Brigate Rosse, quindi è un periodo storico molto preciso vissuto da questo paese, ma quella che vi raccontiamo è la storia intima di un uomo e della sua famiglia. Il vizio dell'ira è il vizio più ricorrente, anche fra le storie che arrivano qui a Linee d'ombra, quelle dedicate all'ira sono le più numerose. Ma per raccontare la prossima serie ho scelto di partire da lontano e di scomodare addirittura una delle questioni più controverse della storia italiana degli ultimi 50 anni. Ha le sue premesse nella metà degli anni 70, è ambientata a Milano e ha come protagonista il figlio di una delle vittime delle Brigate Rosse. Ho conosciuto Giorgio nel 2016. In una giornata dedicata al 400° anniversario della morte di Shakespeare. Quel giorno, sul palco, Franco Bonisoli, uno dei protagonisti della lotta armata, dialogava insieme ad Agnese Moro, la figlia di Aldo Moro, su come si possano ricomporre le profonde ferite di quegli anni. Sul palco, con loro, c'era anche un giovane uomo, più o meno mio coetaneo, che li interrompeva continuamente con una risata contagiosa. Fino a quel momento io avevo cercato senza successo di trovare la connessione tra la celebrazione di Shakespeare e quello a cui stavo assistendo, ma la sua presenza sembrava quella di una sorta di fool shakespeariano, quel personaggio che è un po' il mattarello che porta qualche strana verità all'interno della storia. Ecco, quel fool era Giorgio. Dopo quel giorno di lui ho perso le tracce, fino a quando 2 anni fa, mentre stavo percorrendo altre strade nel mondo del carcere, sono entrato in contatto con una terza persona che gli era amica. Ci siamo così incontrati e mi ha dato la possibilità di raccogliere la sua testimonianza. La sua non è una storia in cui ci possiamo identificare, è una storia molto importante. Ma quello che è successo a me, grazie a questa storia, è stato di riuscire a ragionare su questioni molto importanti del passato, del presente e anche del futuro del nostro paese, da un'ottica decisamente privilegiata. È una storia di ira, è una storia di vendetta, che sfiora il baratro, ma che fa vedere, in qualche modo, una luce. Tant'è che poi io la grossa crisi che ho avuto durante il percorso l'ho avuta perché mi stavo affezionando. Io stavo iniziando a volergli, io gli volevo bene. Il primo giorno che mi è scappato uno, no, ma guarda che gli voglio bene, ho detto cazzo, mi sono sentito veramente in colpa nei confronti di papà quasi. Tant'è che ho chiamato mamma e gli ho detto, faccio mamma, ma sai che succede sta roba qua, ma io mi sento in colpa. Cioè bello il percorso e tutto, ma io inizio a volergli bene, faccio, io mi sento in colpa perché inizio a volergli bene. E lei mi ha dato la risposta che è stata risolutiva, poi definitiva, mi ha detto finalmente parli come tuo padre. Io ho solo 2 ricordi nitidi di papà. Mia mamma dice che secondo lei me li sono ricostruiti guardando e riguardando le foto. In una sono sulle sue spalle, allo zoo di Porta Venezia a Milano, a vedere la gabbia con dentro un leone spelacchiato che non sembrava nemmeno un leone. E nell'altra sono io che sto giocando con i suoi piedi. Ma devo avere guardato così tanto la foto che ho costruito il ricordo in quel momento lì. Il mio conflitto, che ha a che fare con l'ira, nasce dall'assassinio di mio padre e dell'uomo che era con lui, il vicequestore di Sesto San Giovanni, Vittorio Padovani. Mio papà, Sergio Bazzega, è stato ucciso durante un'esecuzione di un mandato d'arresto nei confronti di un presunto brigatista, che poi si è rivelato essere un vero brigatista, Walter Alasia. Walter Alasia era un ragazzo di 21 anni ed è strano, cioè è strano parlare di lui perché io per anni non l'ho voluto conoscere. Io ho avuto, ce l'ho ancora sul comodino, il libro di Alasia, sul comodino penso per minimo 15 anni, senza mai leggerlo. E poi un giorno ho deciso di leggerlo e ho scoperto un ragazzo in gamba, cioè veramente un ragazzo con mille risorse, con mille pregi, con un sacco di ideali. E anche alla luce del percorso poi che ho fatto, non mi ha fatto male una cosa del genere, anzi, mi ha creato quasi un dispiacere. Cioè, mi è quasi dispiaciuto, cioè, mi è sembrato quasi di conoscerlo e di dispiacermi per questo ragazzo che, partendo da ideali che in parte posso anche condividere, perché cioè, anche se parli di giustizia di classe, cioè di giustizia sociale, io non posso che condividerli, perché comunque arrivo da una famiglia di contadini alla fine. Mio nonno poi metteva giù i binari del treno, cioè, come anche mio padre diceva le stesse cose, e che però poi scegli di provare a cambiare il mondo usando la violenza, e è lì che nasce il disastro. Perché quando cerchi di creare qualcosa con la violenza, dopo ti occorre anche la violenza per mantenerlo. E questa violenza rimane una costante della nuova società che vorresti creare. Lui però è un ragazzo che mi ha fatto piacere conoscere, se devo essere sincero, perché suonava la chitarra, componeva canzoni, che erano cose che facevo anche io da ragazzino. Io non suonavo la chitarra, ma scrivevo testi di canzoni e mi sono rivisto un sacco in lui. Alasia è un ragazzo che ho odiato tanto, per tanta parte della mia vita. E invece, adesso, sarei curioso di conoscerlo. Do your best impression for me. I try my hardest for you. Are you in love? Are you in love? Are we as one? That everything desperate is behind. Don't take away this one defense of mine. I reserve the right to disappear. I reserve a table for old time. Back then, it wouldn't have even crossed my mind. But I promise you, your place is safe. Now what about mine? Mio papà era entrato insieme a Padovani nella casa del brigatista. Insieme si sono addentrati lungo un corridoio, quando all'improvviso Walter Alasia è sbucato dalla sua camera e ha fatto fuoco. Ha colpito prima Vittorio. Papà era armato di mitraglietta, avrebbe potuto dare una sventagliata, ma sulla linea di fuoco c'erano i genitori e il fratello di Alasia, per cui ha deciso di non rispondere al fuoco e di provare a disarmarlo.

gonfi anni 70, quelli di una volta, quelli proprio pieni, pieni, grossi che avevamo in sala, rosso arancione erano. E mi ricordo, io su questo divano e questo via vai di divise, di autorità, con la TV che era nell'angolo, guardando la sala, nell'angolo a sinistra della sala, mi sembra che ce l'avessimo ancora in bianco e nero. Sì, mi sa che era sicuramente in bianco e nero quel giorno. E questo ricordo qua, delle divise di questa roba, ed io che poi, forse però, questo me l'ha raccontato mamma, ma di io che con le mie pistole giocattoli sparo, giocattolo sparo a queste divise. Ma io quel giorno lì, ho proprio, quel ricordo che ho sono le divise, le facce non me le ricordo. Io mi ricordo un sacco di divise, quello sì. Come altri ricordi che ho, cioè il ricordo di papà, ero io sulle sue spalle allo zoo, e era una sculacciata che mi ha dato, che ricordo che quello proprio per filo e per segno ho raccontato mia mamma, e lei si è stupita perché era la prima e unica sculacciata che mi ha dato, e poi un'altra che dice mia mamma che mi sono ricostruito, effettivamente è vero che ero io che giocavo con i suoi piedi, ma poi mi ha fatto vedere una foto che ero effettivamente, e ricordo che avevo io era proprio quella foto lì. Certo. Però tra i ricordi, pensandoci bene, quel fatto lì delle divise, quelle sensazioni, io ce l'ho, quello c'è. You and me were like a miracle. peace talk. In some neutral cafe, you lay down, you're sneaking round the town, honey, and I lay down the highway. Mio padre era un progressista, innamorato del suo lavoro. Credeva profondamente nei valori della Costituzione. Papà era una persona molto equilibrata, molto riflessiva e molto anche di mentalità aperta. Papà è stato uno dei primi che ha lottato per democraticizzare il corpo di polizia fondando dei sindacati di polizia. Poi lasciamo stare quello che certi sindacati stanno facendo che papà si starà rivoltando nella tomba, no? Ma che ho anche criticato pubblicamente, certo. L'ho detto, perché papà vedere certe robe, vedere manifestare sotto la finestra di una madre con cui è stato ucciso il figlio, si starebbe rivoltando nella tomba a vedere una roba del genere. Lui aveva altri ideali, era una persona profondamente democratica. Questo ha salvato anche me, perché adesso ci credo molto anche io. Non era uno che parlava per slogan o che aveva facili soluzioni, accettava la complessità delle cose che era tenuto ad affrontare e ci ha sempre provato. Mamma mi ha raccontato a lungo di quanto parlasse della lotta armata. Lui le raccontava come fosse difficile approcciarsi, avere a che fare con queste persone. Diceva: «Io sono abituato alle dinamiche della criminalità comune, sono più semplici». Un reato lo fai perché hai fame, perché vuoi arricchirti, perché vuoi potere, ma è una roba sempre, tra virgolette, egoistica. È una roba tua. Sono delle dinamiche che io sono anche abituato a contrastare. Questi ragazzi della lotta armata, invece, mediamente, hanno più cultura di me. Perché mio papà, poi si è messo lì, stava studiando perché si sta anche laureando, voleva laurearsi, voleva passare in magistratura, perché aveva una visione un po' più... Era ambizioso, lui aveva 32. Lui era molto molto ambizioso, più che altro era uno che credeva e aveva una visione d'insieme di quello che faceva, per cui arrivato a un certo punto non gli bastava più quello che stava facendo, voleva progredire per fare altro, sempre su quell'argomento. E raccontava che lui faceva veramente fatica a rapportarsi con questi ragazzi, perché erano ragazzi culturalmente preparati. Io arrivo da una famiglia di operai e contadini, diceva mio padre. Quando loro parlano di giustizia sociale, come faccio a non essere d'accordo? Però aveva anche ben chiaro che se tu scegli la violenza per affermare questi principi, crea un cortocircuito che annulla tutto il bene che ci può essere nei tuoi ideali. Era un momento socialmente difficile, c'erano delle ingiustizie. In quel periodo nasce lo Statuto dei Lavoratori, nascono le dichiarazioni dei diritti dell'uomo, ma la lotta armata, con la violenza che ha generato, è come se avesse in parte posto in secondo piano le grandi vittorie sociali di quegli anni. A un certo punto ha decapitato, senza fare distinzioni, le migliori teste riformiste dell'epoca. Gente come i magistrati Galli e Alessandrini, l'economista Tarantelli, il direttore del personale di una fabbrica di Milano, Renato Briano, erano persone che avrebbero potuto fare del gran bene a questo paese. Ma la violenza ha decapitato tutta la spinta riformista che c'era stata. E se conquisti il potere con la violenza, l'unico modo per mantenerlo è attraverso la violenza. Se avete voglia di ascoltare questa storia, potete riascoltarla tutte e cinque, queste prime cinque puntate della storia seriale dedicata all'Ira. Lo potete fare, appunto, vi dicevo, sul nostro sito radio24.it, alla pagina di Linee d'Ombra, oppure sulla nostra app, scaricandovela sul vostro telefono. Noi vi auguriamo un'ottima domenica e ci sentiamo lunedì alle 15 per raccontare storie con Linee d'Ombra, che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!